And then you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presenta, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di plastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene in dopo il set. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ah no? Ma che? Ah? Calla, guardavo a finire. Ah? No. Questa è OGM Social Media Edition. Ma social, ma che è stata stronzata? Soci che? OGM Social Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Buonasera a tutti, signori e signori, qua da Runtime Radio alle ore 21 e poco più. Siamo tornati noi, come tutti i lunedì, con OGM Social Media Edition. E con me c'è Valtoris Banousos. Siamo sicuri? Sì. Proprio, cioè, non, sei tu. Non è che domenica dico andiamo a dormire, no? Magara. Buonasera. Che poi guarda caso, cioè, non hai fatto caso che noi abbiamo scelto il giorno più infausto della settimana. È quello difficile, proprio quello che ti manca la carburazione, guarda. Però la carburella, qualcuno manca la carburella. Doveva pur fare. Marco Guada Isus. Che sta a morire? Questo è il dolore del lunedì. Ah, il dolore del lunedì, ok. Però parla con un po' più di enfasi, perché... Ecco, già va meglio. Carmine Puccio Consolistico. Il Blue Monday. Vi sentite blu? Sì, molto. No, ti sentiamo molto basso più che altro. Però sì, adesso no, che peccato. Abbassiamo la base, insomma, cominciamo a sistemare. Ti sei alzato? Mettiti in piedi, perché sennò... Più di così è difficile. Francesco Lobby Frontali Dai Mowers. Ti saluto perché vado a mangiare. Ah, buon appetito. Ciao. Ciao. Una volta che te si sentiva bene, incredibilmente. È bella. Il karma. È il destino. Vabbè. Il karma da zoccola. Fammi che lo fa parlare. Ah, forse. Benvenuti a questo nuovo episodio di OGM Social Media Edition. Tra l'altro, oggi è giornata pregna. Perché insomma, fregna. Perché se sono successe delle cose, no? Cioè, fregna. Fregna? No, fregna proprio no, però tutto il resto sì. Vabbè, pregna allora. Pregna. Così dovresti dire, no? Cosa del genere. Perché morti, arrestati, cose, insomma. Però adesso arriviamo al dunque di questa trasmissione, iniziando un po' con ordine. Però se mi permettete una marchetta, facciamo una marchetta runtime, un secondo solo, eh. Dal 24 gennaio torna Runtime Radio Horror Night. Un momento di puro terrore con i racconti di Taste the Fear. Preparati ad urlare ogni martedì sera alle 21 su runtimeradio.it. Segui Taste the Fear anche su YouTube. Insomma, noi cerchiamo di regalare contenuti a questa radio. Tra l'altro abbiamo anche un'altra idea che, se portiamo a termine, riusciamo a riempire anche il mercoledì. Grande. Intanto abbiamo questa dimensione di puro male. Puro male. Esatto, bravo, bravo. Ci ricorda sempre qualcosa, sempre bei film, quei film meravigliosi, insomma, che hanno riempito la nostra infanzia. Infanzia? No, non è proprio infanzia. No, no, tarda adolescenza come minimo. Tarda adolescenza, ecco, forse è il termine quasi adeguato. Bene. Allora, da che cosa iniziamo, Walter? Tu che sei un po', come posso dire, the maneuverer. Ma vogliamo iniziare dai Sochmel o vogliamo iniziare dai fatti della... Perché oggi veramente dovremmo quasi tornare all'OGM classico. Allora, facciamo una cosa. In parte, per lo oggi, meno. Oggi iniziamo così, perché è giusto, non c'è un certo punto. Perché poi succedono delle cose che tu sapevi già che sarebbero successe, però poi quando succedono dici... Non te l'aspetti. Ma come mai? Ma aspetta, questa la notizia che dobbiamo dare è che Pippo Baudo si è salvato anche stavolta? No. Non era quella che hanno arrestato il boss? No, questa musica... quello dopo. Ma che noi non siamo motivati. Questo è Coccodrillo. Questo è appena di Pippo Baudo, si è salvato ancora una volta. Nel senso che ha seppellito l'ennesima persona del mondo dello spettacolo. Chi è? Ah, beh, giustamente. No, scusa, Gina Lollobrigida. No, pensavo che aveva seppellito lui qualcuno. Perché insomma noi non possiamo saperlo. Perché Katia Ricciarelli, allora, che fine ha fatto? Scusate. Da mo' che si sono separati, sì, ma che fine divorziati. È viva lei. L'hai mai vista? Esatto, tu l'hai mai vista? Ultimamente. Io non l'ho più vista. Infatti. Ma no, fortunatamente non ho visto manco Pippo Baudo. C'è una buca grossa nel giardino. Guarda, io non so. È che mi stupirei proprio del tutto nello scoprire che Pippo Baudo, che ne so, c'ha qualche... qualche affinità con Dexter, ma anche con Gualdi. È tutto sommato. No? Vabbè, no, comunque è morta. Però lo vedo più da pilastro di cemento armato. Se devo dare una. A proposito di pilastro, è morto un pilastro dell'ideologia fascista, insomma. La nostra Lollobrigida. Ma non è quello giusto. Però pure lei non è. No, certo, sicuramente non era esattamente. Pure lei non ci scherzava, insomma. Vabbè, ma è più giustificabile, direi. Secondo me, Gualmirante viene da quell'epoca, insomma. Sì, dici, però poi dopo è passata l'epoca, vedo. Lo so, ma c'è gente che ci si è fermata. Tu rimani ancorato. Allora, cioè, okay. È più giustificabile una che viene da quell'epoca e ci rimane, piuttosto che uno che non viene. Il problema da quell'epoca è che non c'è rimasta, ci diventa. Nel senso. Vabbè, però, comunque insomma, è morta Gina Lollobrigida. Guarda, spiace Gina Lollobrigida, sì. Spiace anche perché gli ultimi anni era stata completamente circuita, circonvenzionata, circonvesuviana, circondata da questo personaggio di dubbia moralità, che pare l'avesse anche sposata a sua insaputa, che gli voleva fregare i soldi. Ma chi è? Io non so niente. Un tizio molto più giovane di lei, che praticamente l'ha irretita, circuita. C'era una guerra in atto tra i figli della Lollobrigida e questo tizio che accampa diritti sul... adesso ovviamente sull'eredità. Fino a ieri appunto c'era questo matrimonio contestatissimo, perché lui ci avrà avuto, ora non ricordo bene, fai conto 30 anni, e l'ha sposata quando lei ne aveva, fai conto, 85. Secondo i figli lei non era comunque in grado di intendere di volere, o addirittura lei non sapeva neanche che si è sposata con questo. Macello, brutto. Vabbè, questo succede alle persone ricche quando hanno tanti soldi. Perché sono ricche, esatto. Ok, quindi, e soprattutto è l'ex persone dello spettacolo, perché sono più soggette, diciamo, sono più inclini ad essere attenzionate dai complimenti. Certo. No? Vediamo me stesso, un Walter, un Simone che viene irretito da una trentenne a 60 anni, cioè a 80 anni. La vedo difficile. Guarda, c'è 60. Guarda, c'è sempre il fatto che, cioè, tipo, vedi mio padre, no? Parlo mio padre, che alla fine, insomma, alla fine succede sempre. Qualcosa del genere. Diciamo che devono comunque mostrare lo stereotipo, luogo comune, però un po' subodorare la disponibilità, perché sennò non te pensano proprio. Sennò è amore. Però esatto. Ma vero, proprio subdorare. Che non corriamo. Esatto. Poi non so cosa è peggio. Per ora, non lo sappiamo. Arriviamo a 60-70 anni, poi vediamo. Giochiamo il Super Enalotto. Quello che succede, insomma. Puccio, ti dispiace di Gina Lollobrigida? Tu eri un appassionato, insomma. Proprio, stiamo parlando di una categoria di attrici che manco so chi fossero. Vabbè, la fata turchina. Vabbè, già è vero, tu del cinema ci capisci un cazzo, è vero. No, soprattutto, aspetta, non solo ci capisco un cazzo in generale, di quel particolare periodo storico ci capisco ancora di meno. Del cinema di quel periodo ne so ancora di meno. Qual è il periodo in questione, però? Ma quello della Monroe, okay. Monroe. Dal dopoguerra in poi. Lollobrigida aveva 95 anni, se ricordo bene. Forse quindi anche probabilmente prima è nata prima di Marilyn Monroe. Oddio, credo Marilyn Monroe quanti anni ci avrebbe adesso? Probabilmente. Guarda, vediamo un po', eh. Chiediamoglielo a Google. Google, Marilyn Monroe. Nel frattempo, Puccio, tu da quanto parti? Normalmente è nata nel 26, quindi sì. Ma tu da quando parti, Puccio? Cioè, le due conoscenze. Dove devi andare? Tu non parti, no, metaforicamente, due conoscenze cinematografiche del cinematografo. Da quando partono, più o meno? Tipo dagli anni 70. Ah, vabbè, già. Insomma, già, dai. Dal colore. Sì, esatto. Lasciamo perdere Puccio il cinema, che sono due cose proprio. Lui, io i primi ricordi che ho il primo film che ha visto. Se non era prima un fumetto, Puccio non lo conosce. L'Uomo Ragno. Lui, Puccio al cinema, la prima cosa che ho visto. Peggio, io il primo film che ho visto al cinema è stato Biancaneve e i Sette Nani. Vabbè, ma quello penso un po' tu. Il cartone animato, vabbè, quello ci sta, dai. Ho visto pure. Sì, ma hanno dovuto portare fuori i miei genitori perché dicevo le parolacce perché me l'ho spaventato. Addirittura, pensate. Perché tu ti spaventi di bambino strano 4 no? Quando è uscito E.T. per essere riportato al cinema. Beh, hanno ragione, eppure lì ti sei rispaventato. Io ho bestemmiato direttamente. No, io per esempio, tipo incontri ravvicinati al terzo tipo, quello faceva paura, dai. Un po' un cagotto lo faceva. Dai, sei piccolo un po'. La parte del bambino. Incontri ravvicinati al terzo tipo, perché vi dovrebbe. Cioè, quello lo sta dicendo anche mia moglie, che avevamo preso il discorso. Ma esattamente che cosa che vi inquieta? Vabbè, quando arriva la nave che comincia a fare vabbè, ma sono amichevoli, si capisce. Sono amichevoli, se va presto a dire sono amichevoli. Pure i visitors sono arrivati che erano amichevoli. Ma se mangiavano i topi crudi là dove vabbè, ma tu non lo sapevi quando. Vabbè, quello era un lavoro socialmente utile. Tra l'altro, usavano a posto dei gatti. Capito? Invece che ricattare c'erano i visitarsare. Tu pensa a Roma adesso, magari un po' più grossi di stazza, che se mangiano i cinghiali interi. Vedi. Forse interi non gliela facevano, però. No, per quello dico una stazza un po' più. Però ecco, dei visitor non ho mai capito che cazzo ci provassero a mangiare persone. Cioè. Perché? Ma secondo me una cosa valeva l'altra. Sì, infatti. Allora quelli erano disperati, c'era il pianeta che stava a mezza merda, mi è stata Ma se vuoi sorci quanto perché ne vuoi, invece il nostro sta bene. No, allora erano venuti a prendere l'acqua e bene, ci sta. E le persone, mi pare, sì. Però lo sai, non mi ricordo bene, questa cosa delle persone è un po' di meno. Praticamente hanno fatto il drive-thru del McDonald's, no? Esatto. Sono passati da noi, hanno fatto il pieno. Comunque Visitors, raga, era figo. Cioè, beh, sì, negli anni 70 e 80. La prima stagione di Visitors era figo. E invece poi, torniamo alla cronaca, Walter, oggi è successo, insomma. È successo che stai litigando con la sedia. Non so. Mi sono intrecciato nei cavi qui dello studio. Qui è un casino, fino a che non sistemiamo in qualche È successo maniera. Che inspiegabilmente... Così, ma guarda un po' poi, assolutamente. Non si erano accorti che c'era un tale Matteo Messina Denaro che praticamente da anni si andava tutti i lunedì a fare la chemioterapia in una clinica privata al centro di Palermo. All'improvviso, guarda, proprio adesso che devono anche superare l'ergastolo ostativo eccetera, guarda, proprio adesso quasi a confezionare una sorta di nuova trattativa, di nuovo accordo, lo hanno trovato. Poi pensa male, se fa peccato. Prima di tutto si chiamava Andrea Bonafede. Esatto. Partiamo da sto presupposto. Anche per prendere per il culo di DJ Fofò, tra l'altro. Sì, non è anche parente del politico delle 5 Stelle. Scusa? Non è parente anche di quello delle 5 Stelle. No, Bonafede, come si chiama quello? Sì, però il nome Bonafede era quello falso. Sì. Per quello dico. Tutto un giro di parentele, secondo me. Ma se c'è. No, ovviamente, però il sadismo di utilizzare come cognome fantoccio quello del politico che durante il suo ruolo di ministro della giustizia creò la spazzacorrotti e vari altri. Misure contro i reati di mafia. Allora, tanto riportiamo la gente sulla. E basta, perché non vorrei sembrare quello che difende DJ Fofò. No, perché dai, che insomma, manco chi sia. Quindi Alfonso Bonafede, il ministro dell'istituzione. Comunque, riportando la gente sul pianeta, su terra, sì. Allora, di fondo, quando c'è stato un personaggio come questo, che non è che stava dentro i boschi di chissà dove o roba, in un bunker sottoterra, fa i cassi sua. Tra l'altro è tre volte vaccinato nel 2021, vedo. Sì. Stava facendo delle cure oncologiche da diverso tempo. Esatto. Che però comunque si presenta come una persona in buona salute. Cioè, no, sostanzialmente ben vestito e ben tenuto. La cosa bella è che se tu guardi il triangolo della zona dove è stato arrestato. In triangolo, presente quasi nello stesso quartiere, anzi nello stesso quartiere dove c'era la clinica privata dove l'hanno beccato, c'erano una grande caserma dei carabinieri e c'era pure la sede della DIA. Allora, cioè, voglio dire, cioè proprio per la serie, nascosto in bella vista. No, ma non è bella. Allora lì, fino a che nessuno ha fatto la spiata, andava tutto bene. Tant'è che lui, quando sono arrivati i carabinieri non ha fatto resistenza e ha detto subito sì, so io. Sì, quando hanno detto lei dove va, lei chi è, lei alla chi fine è? Lui ha capito che ormai era troppo. Sì, però... ma secondo me già lo c'è, come loro sapevano dove stava, perché evidentemente questa cosa era tracciata, perché allora, sì, no, è chiaro che l'operazione l'avevano organizzata, però esatto, ragazzi, queste cose succedono quando tu già vai a colpo sicuro, perché o c'è stata una spiata o quello che è, insomma, no? E lui ovviamente di contro, di contromossa, ovviamente evidentemente aveva ricevuto l'informazione che oramai, ma sì, ma non guarda, c'erano cazzi, al di là del fatto che adesso il governo subito cerca di fare la bandiera di questo grandissimo successo, abbiamo sconfitto la mafia, così secco, no, tassativo, tranchant. Beh, dico, se c'è gente che ha sconfitto la povertà, esatto, dico ragazzi, voglio dire, se questa persona, se questo boss è stato preso perché evidentemente ormai aveva già abdicato da tempo, anche perché voglio dire effettivamente bene non stava, quindi probabilmente è arrivato a un punto in cui la sua salute è tale per cui non si poteva più nascondere, ha detto vabbè, avrà anche in qualche modo, buttiamola così, quindi su, secondo te sul è merito? Fanta, sì, è merito, cioè, è molto merito, secondo me avrà negoziato qualcosa, sì, dai, una buona uscita, sono d'accordo in qualche maniera, comunque dice vabbè, però non e io mi auguro per questo governo, per tanti governi precedenti e anche magari futuri, che non lo farà, ma se questo decide decantassela, ragazzi, se svuota il Parlamento. Casino, sì. Comunque, tra l'altro, oggi è successo ufficialmente anche un altro fatto importante, cioè io sono uscito da Twitter, che era una cosa che io ho meditato da tempo, ok? Infatti avevo scaricato tutto il database. Scusa, aspetta, Elon, no, vabbè, poi ci parlo io, ciao. C'ho 20 giorni per pensarci, però non ci ripenserò, perché avevo già meditato questa cosa, però poi non l'avevo ancora messa in esecuzione. Poi a un certo punto ho visto il Twitter di Vittorio Feltri. Ma il motivo per rimanere, perché è proprio uno specchio dello squallore del genere umano. No, io ho visto il Twitter e a quel punto ho cliccato proprio la scritta rossa abbandona completamente. Distruggi Vittorio Feltri. Esatto. Sarebbe stato bello quello, però purtroppo non c'ho questo potere, perché Vittorio Feltri. Se lo chiedi Elon Musk potrebbe. No, ma lui anzi. Lui c'è sguazza questa cose. Merda, quindi lui giustamente Vittorio Feltri che ci dice che giustamente ci voleva la Meloni. Scusa. Vittorio Feretri, stavi dicendo. Vittorio Feretri, Enrico Feretri, ancora peggio, non so perché. Comunque, Vittorio Feltri ci ha detto: sai, ci voleva la Meloni per arrestare questo criminale, questo mafioso, perché ovviamente senza di lei tutta, come posso dire, l'impunità, insomma, che gli era stata concessa è venuta meno. È insomma. Stato in quel momento che molti dei Ross avrebbero deciso di rilasciarlo. Esatto. Però vabbè, dai. Tra l'altro c'è un bellissimo Twitter dei carabinieri, che è anche quello, poi successivamente, cioè ho aperto Twitter e ho detto ok, proprio ho realizzato, perché c'è il Twitter ufficiale dell'arma dei carabinieri con questo video di questa signora, fa bravi tutti contenti, erano tre persone, applausi per Palermo, erano tre persone con tutti questi carabinieri tutti imbacuccati e si abbracciavano come se avessero vinto la Coppa del Mondo. Vabbè, cioè, però dai, per loro, per la loro professione, per le stragi eccetera, io loro li posso anche capire, per loro è stato comunque un successo politicamente, un po'... sì sì, per carità, però politicamente io questo successo non lo vedo, però posso capire che invece per l'arma questa cosa sia diversa. Ma per parlare di personaggi squallidi, non c'è stato solo Feltri, perché a parte che abbiamo realizzato, poi ci torneremo, che i direttori del TG2 li fanno tutti con lo stesso stampino a forma da imbecille, quindi fatta sì, questa premessa a forma di cazzo, vabbè, capito. Però Mauro Mazza, ex direttore del TG2, oggi ha scritto un tweet dicendo: non trovo la dichiarazione di Roberto Saviano in cui plaude al governo di Giorgia Meloni per l'arresto di Matteo Messina Denaro. Che poi la cosa è bella, che non so se ci sia, perché ha anche taggato chiocciola Messina Denaro, come se lui dovesse avere il tweet. Secondo me c'è il tweet, vabbè, lasciamo. La cosa inquietante è che potrebbe, hai provato a cliccare sul, esce un coso con tre follower che non so che sia, magari un account lui, fake, ok. Però vabbè, è lui che è seguito dalla madre e dal figlio. Ma penso poi io... voglio dire, ma ragazzi, queste operazioni, poi io voglio dire, no, queste operazioni che comunque vengono pianificate, lo sappiamo, per larghissimo tempo eccetera, ma per quale cazzo del motivo dovrebbero essere merito di un governo e non delle forze dell'ordine, della magistratura che le hanno coordinate? Il governo sta nelle stanze a distronzate, non stanno a fare operazioni antimafia. Basta, certo, chiaro, mettersi le medaglie in petto, è, guarda, troppo facile. A meno che, guarda, io questo posso arrivare a pensare una cosa del genere, a meno che ovviamente non ci sono già dei preaccordi politici, cioè nel senso, oh, ragazzi, se vinco io dovete fare questa cosa, perché, cioè, alla fine c'è sta anche che i carabinieri simpatizzino, diciamo, insomma, sì, che... sì, no, è chiaro che da un, quindi, punto di vista della bandiera, piatelo, e quelli sono andati a piarlo, insomma, non è che, quindi, cioè, però vabbè, dai, adesso tutta la dietrologia possibile, ma non videoludica. L'unica cosa che siamo sicuri è che non è che tu prendi e trovi un massina denaro. Beh, così a casaccio, appunto, ragazzi, ci sono venuti 15-20 anni, 30 anni esatti di latitanza. Resta il fatto che comunque, se proprio vogliamo leggerla da una chiave di lettura non proprio ottimistica, questo stava nel pieno del quartiere di casa sua. Tutti lì. Siamo tutti, esatto. Comunque, no, io, ma voto... no, Rina, no, cazzo, Rina stava dentro al sottobunker. Quartiere buono, tutto, no, Rina quantomeno stava sottoterra, nel senso sotto che era nascosto. Bunker, cioè, vuoi dire, almeno, vabbè, d'altra parte, evidentemente, almeno la scena ha fatto. Sì, insomma, però c'è da dire che, evidentemente, Messina Denaro per curare il tumore non poteva farne a meno, sì, di andarsi a fare le chemioterapie. Comunque, io voto per l'idea della Meloni, sono d'accordo con lei, per fare il giorno per la lotta contro la mafia. Lo facciamo? Cazzi sua. Lo facciamo? Ma perché? Facciamo. Perché non esiste già il giorno. Ah, già, è vero, esiste già. Ah, è vero. Esiste già. Forse tocca dirlo pure. Questo mi ricorda. Cioè, bisogna dirlo che... Mi ricorda quel cartone animato bellissimo di Matley, lo ricordi? Di Dastard e Matley, certo. Sì, che lui diceva sempre, c'aveva l'idea, no? E quell'altro, ma che cazzo dici? E poi diceva la stessa idea, no? No, non erano Dastard, no, e Matley. Erano loro. No, però più o meno ho capito il riferimento, sempre roba misa di Anna e Barbera. Mignolo, ah, e Prof. No. Sì, no, nel senso, era nello stesso cartone animato, invece, della corsa, quello della corsa. Ah, Wacky Races. Ok, c'era uno dei personaggi dove c'era pure, ovviamente, Matley e compagnia bella, dove c'era pure Penelope Pistop, questi qua. Vi ricordate, c'erano tutti i personaggi che venivano accorpati. Sì. Vabbè, comunque, Puccio, invece, mi chiedo, prima di andare a Cippe Cippe, intanto noi ogni tanto diamo un ping a Francesco se ha finito di mangiare. Francesco, hai finito di mangiare? Sina. Eh? Sine, ok, sine. Io che... sto al secondo pezzo. Senza che mi tratti come un deficiente, però, dai. Perché ti tratto come un deficiente? Oh, vediamo se Francesco ha finito di mangiare. Guarda, oh, che risata, quel coglione. Ma vaffanculo, su vecchi e merda. Ma tutto a posto, Francesco? Francesco, quasi inquietante, no, ascolta, questa Francesco, cosa, cioè. Ascolta, quando scegli le verdure per il minestrone, esatto, quelle ci mette lì, non ce le devi mettere. Questo un anno malefico, stai zitto pure tu. Andiamo bene. Dai, una parola dolce pure per Marco, sennò ce ne sta male. Dai. Dimmi qualcosa. Che voglio bene. Ah, okay, no, che stronzo, sei la merda. Dormi preoccupato. Sei la merda. Vabbè, no, dico, su Quora ne parlano di sta cosa, perché Quora io ho visto, insomma, che ci sono delle discussioni sempre Quora, più interessanti. Allora, ragazzi, però, scusatemi, io posso dire una cosa, però, Sì, poi fa parlare a Puccio. No, no, proprio riguardo Quora. Ma perché non le fa, cioè, non l'hai fatta mai tu una domanda a Quora? Cioè, facciamone no, noi. No, rispondo. No, in realtà, vabbè, non posso neanche rispondere per i prossimi 10 giorni, probabilmente. Ti hanno bannato? Perché l'hanno bannato? Perché, ragazzi, non tutti gli eroi indossano un martello. Un martello. E infatti sono d'accordo, c'era solo Torre in questo momento. Posso, se volete chiudiamo la trasmissione. Un martello e soprattutto Quora, diciamo, ha avuto non l'eroe che meritava, ma l'eroe di cui aveva bisogno. Dici. Niente, praticamente ti sei fatto riconoscere, insomma. Sì, mi sono fatto bannare per 10 giorni. Perché come tutte le storie ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Che è successo? Che su Quora è imperversa da mesi, probabilmente di più, però mesi che l'ho notato io, un signore di una certa età, veneto, diciamo così, abbastanza a briglia sciolta con gli insulti, siccome la moderazione di Quora tendenzialmente, ah sì sì, ok ora ricordo, sì, sì. Avete avuto delle ma lui l'hanno bannato? Non lo so, non ho controllato onestamente. Avresti dovuto. Scusa. Non può entrare. L'hanno bannato, posso, lui. Non posso postare. Okay. In pratica è successa questa cosa che in pratica questo scrive sostanzialmente quattro cazzate a ripetizione su qualsiasi domanda del tipo: qualcuno di voi è stato in Australia e mi può dire com'è il tempo a maggio a Perth, per esempio? E lui risponde: no, perché è colpa dei comunisti che sono stati guidati da Berlinguer, che era un falso perché era ricco quindi non poteva essere comunista, e anche colpa dei napoletani perché truffano gli italiani, ma l'importante è che il Veneto diventi indipendente. Sono tutte così le risposte su qualsiasi domanda. Che è successo? Che una ragazza l'ha preso di punta, all'ennesima risposta strana che ha pubblicato gli ha scritto una roba del tipo: senti, ma la vuoi smettere, perché tra l'altro è anche contrario alle policy del sito? E lui gli ha risposto: comprati un vibratore. E siccome io in quel momento, diciamo, non ero proprio di buon umore, ho pensato bene di rispondergli: guarda, se lo fosse comprato tua madre probabilmente a quest'ora stavamo più tranquilli. Perché insomma l'educazione, onesto, viene onesto. Adesso, senza entrare nei dettagli, mi è arrivata la notifica del ban, mi è arrivato un messaggio. Sì, ma dai, se hanno bannato te, devono aver bannato pure lui. Perché lui avrà, il tizio Veneto avrà segnalato Puccio. Puccio se lo devi segnalare. No, perché poi lui mi ha risposto tipo: pezzo di merda, terrone, eccetera, eccetera. Tutte così. Vabbè, quello è vero, cioè. Sì. Sì, no, scusate, ho ancora i post dell'altra settimana. E quindi sono stato poi, mi è stata notificata la sospensione tipo tre giorni dopo, neanche subito, con poi un messaggio di uno dei moderatori di Quora, diciamo in modalità stealth, che mi ha scritto: guarda, non ti nascondo che ho riso, però a norma di regolamento. Quindi sono dei moderatori italiani. Vabbè, però scusa, a norma di regolamento fisici proprio, cioè non so, dei bot. A norma di regolamento allora avrebbero dovuto bannare anche lui, anche per penso più di 10 giorni. Controllato. Penso di sì, ma non ho controllato. Non mi frega assolutamente niente. In pratica poi a questa persona che mi ha notificato il ban ho risposto che vabbè, non ero offeso, tra virgolette, anzi era giusto. E in più gli ho detto: siccome sono stato amministratore del forum di Comicus da decina d'anni, capisco perfettamente che ti tocca. Quindi non è. Vabbè, però io a quel punto gli ha chiesto: scusa, ma è bannato pure lui. No, non glielo ho voluto dire. È stato superiore, ha fatto bene. Bravo Puccio. Bravo Puccio. Quindi io probabilmente avrò il daspo dal Veneto. Sto stronzo terrone. Vabbè, ma sti cazzi anche il Veneto, diciamoci la verità. Ma tra l'altro, essendo astemio, sai che problema. Che sfortuna il daspo dal Veneto, mannaggia, ti perdi proprio. Il Veneto. Ti perdi il Veneto. Mamma mia. Come diceva Verdone, è stato civile Veneto. E vabbè, quindi praticamente tutti. No, niente, in realtà poi ho catturato qualcosa in questi giorni, ma okay, magari ne parliamo più avanti. Ok, allora. Comunque, scusate, ragazzi, ma mi facevano notare, più che altro questa cosa è venuta fuori su Twitter, che in realtà oggi con l'arresto di Messina Denaro si è avverata una profezia di Lundini. Ah no, di Nostradamus. No, di Lundini, e ha detto, fece questa, insomma, questo segmento all'interno del suo programma in cui veniva interrotta la trasmissione per annunciare l'arresto di Matteo Messina Denaro, che si era nascosto nel fantabosco col nome del mago mafioso. Quindi voglio dire, non è andato troppo lontano da... Vabbè, io direi che allora rifacciamo il giro un attimo. Partiamo un attimo da Walter. Marco, Francesco, se c'ha qualcosa, e poi ritorniamo da te, va bene? Poi ovviamente tutti commentiamo le cose, insomma, meravigliose che usciranno fuori da tutto questo, insomma. Quindi Walter, vai, Cippe. Allora, volevo cominciare... Poi prima o poi la faremo, Sì, una sigletta, certo. Volevo cominciare dal grande assente di oggi. L'avranno chiuso nello sgabuzzino delle scope. No, non così grande. Lo hanno chiuso nello sgabuzzino delle scope, molto probabilmente perché sennò si sarebbe preso il merito come faceva sempre lui, no? E quindi è qualche giorno che gli devono aver levato i social, perché non vedo e non sento fare danni. Però la settimana scorsa ce n'era uno che poi io ho conservato. Beh, oddio, c'è stata la storia di ieri delle autonomie, che insomma. Ah, beh, sì, quella fin troppo seriosa l'ho lasciata perdere. Questa cosa invece l'aveva fatta notare un utente di Twitter che si chiama Pasquino. perché Salvini, non so se ve lo ricordate, qualche tempo fa inveiva con questo messaggio: troppa impunità sulle strade, troppe stragi di innocenti, metteremo mani al nuovo codice della strada dopo che 30 anni merita una rivisitazione su norme e obblighi. I tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono già al lavoro. Questo perché nel 2022 in Italia c'erano stati quasi 1500 morti per incidente, e in aumento dell'oltre il 10% su base annua, e lui diceva: no, basta, il codice della strada è da riformare. Che poi il problema non è il codice della strada, il problema è sempre l'educazione. Sì, vabbè, ma tanto lui sta lì semplicemente a speculare. Io l'altro giorno ho dato un bel calcio sullo sportello a un ragazzino a malapena 18enne. Hai fatto bene. Ma la cosa che poi fa ridere è che subito volta faccia, quando qualche settimana dopo il sindaco di Milano Sala ha ufficializzato che dal 2024 tutta la zona ZTL di Milano, anzi in realtà tutto il centro di Milano, salvo alcune strade a scorrimento più veloce, avranno il limite di 30 km all'ora, che poi personalmente mi pare una cazzata enorme, però vabbè. Matteo Salvini lì ha cambiato completamente parrocchia, ha detto: ricordo al sindaco e al PD, così, perché, che a Milano la gente vorrebbe anche lavorare. Sta cosa del lavorare. A parte il fatto che Salvini che parla del lavoro, chiaramente. Sì, come... a Sala, che era quello che diceva che smart working non è lavoro, bisogna andare tutti in ufficio, sì, a lavorare. Ma infatti è una mannata dei coglioni. Però la cosa divertente è proprio il dualismo tra il pensiero di quando deve fare sensazionalismo sui morti e quando poi si deve lamentare per una misura che in qualche modo i morti li ridurrebbe, ma che viene da un partito, il PD. A parte quelli di bestemmie, però. Parte, sì. Però certo, poi detto io li morti non glieli ridurrei mai, devo dire la verità. Cioè, certo, questo è vero, anche perché ricordiamo che noi in qualche modo nasciamo da morti di bestemmie. Però c'è il problema che oggettivamente l'idea di una città intera con il limite di velocità a 30 all'ora è una cazzata veramente pazzesca. A me bastano le strade a 30 all'ora, che sono poche, del nostro comune qui di Monterotondo, che sono frustranti. Ma immagino una città come Milano tutta a 30 all'ora, te viene l'orticaria, il rush cutaneo te viene. Sì, è vero che Milano in questo momento è in una situazione comportamentale, sociale, insomma, generale, insomma, abbastanza complicata, cioè, nel senso... No, ma per carità, non è che a Roma stiamo meglio, però voglio dire, erano i sardine, cioè non è neanche verso il centro, qua al centro ci sono passate, ma gallerie roba, cioè non ci si muoveva, era tremendo. Tra l'altro Reggio Emilia ieri c'è stava la partita del Sassuolo con la Lazio. Dice c'erano tipo 5.000, 6.000 laziali in casino. Hanno spaccato tutto, immagino. Ha fatto bene. No, che ne so, tu stavi a Reggio Emilia, io non lo so. Mazza, 6.000 laziali manco all'Olimpico la domenica. Perché c'era tutto il settore ospiti. Vabbè, quelli dice giustamente. Cioè, quelli nostri ci vengono, almeno qualcuno gli vendeva i biglietti. Beh, sì, no, per carità. Beh, poi lo Mapei Stadium, anche Grandicello, qualche incasso lo dovrebbe fare. 15.000, 20.000 ho lavorato quando facevo lo steward, e quante partite ci ho fatto la Wind. Ah, tu facevi lo steward come Di Maio? Sei infatti un collega di Di Maio. Che onore! Quando Di Maio lavorava, non ci ha lavorato più. Però, che onore, però, quindi potresti, diciamo, essere il prossimo ministro di qualcosa, Reggio Emilia, però tutti i capi unità, tutte là parlavano il Di Maiese, cioè era una cosa tremenda. Mamma, che schifo. Spiega, definisci Di Maiese, sono curioso. No, che parlavano, cioè tutti i responsabili, tutti i capi unità, tutti quelli là dei vari settori erano tutte napoletane, tutti. Guarda un po', che strano, eh. Il mondo, ma, e io sapevo che il mondo l'avevano colonizzato l'abruzzesi, invece scopro che no. E i calabresi anche. No, i calabresi solo Milano. C'è cazzo. Tu non lo sai, c'è una rivista che si chiama Calabresi nel mondo. Vabbè, in Australia sono praticamente la popolazione più comune. Io pensavo di vabbè, no, i canguri. Esatto. I gangaras. Infatti parlo i gangaras. How are you? La Antonio. Antonio. I have to hit. Speak English. Perché parlano tutti quanti così. Che ma li facciamo ecco perché non sei biscioccato. Della demagogia. Ecco, sì, così, quelli di Catanzaro in particolare. Sì, dai, Catanzaro, ricordiamo che c'è Gwen. Salutiamo perché Gwen. Ricordiamo che non ci ascoltano più da stasera. No. Non è, io l'ho sempre detto, raga, avete mai ascoltato in uno stesso podcast Gwen e Ojo? Cosa? E Ojo anche. Continua, continua, che sennò qui ci siamo impallati. No, in realtà volevo dire Gwen e Bruno Barbera. No. No. No. No, adesso ecco, io lo so, già mi arriverà la mail domani, già lo so. Ok, cancella da Bruno Barbera. Mi assumo la responsabilità. Già lo so, perché voi sapete che una volta Santilio fece una battuta in un podcast su Bruno Barbera. E a un certo punto a me mi è scappato da ride. E il giorno dopo un pippone. La tragedia. Un pippone, cioè, che poi GM non l'ascolta nessuno, ma quando devono ascoltare, sì, sono tutti. Beh, sempre quello funziona per ogni cosa. Perché poi anche se c'è uno che l'ha ascoltato, cos'era? No, oh, niente. Ma penso sia stata una cosa rapida e indolore. Però non era il cane ragazzi, tuo. Ragazzi, cioè, se vogliamo litigare, potremmo anche parlare del podcast. Quello dove. Ci sono delle cose che avvengono al di fuori di questo, di questa casa, Pizzi, non ti preoccupare. Fuori, sì, c'è un solo partecipante, anche se ce n'erano tanti. Vabbè. Vabbè. Stanno picchiando un cane di fuori. E nel frattempo salutiamo, credo che ci stia ascoltando, il nostro radio anziano, il nostro Kitaro, Capitan Kitaro, anzi, che dice Bruno libero! Esatto, infatti, perché giustamente Bruno è uno di coloro che ascolta Radio Anziano. Tra l'altro, ho sentito una puntata, proprio qui chiudiamo un attimo sta questione, così almeno sentito una puntata dove Bruno faceva un ragionamento sul discorso del era legato sempre al famoso fatto di cui abbiamo parlato, no, di Greta e coso e Andrew Tate, no? Sì, Tate, sì. Ok, tra l'altro aveva fatto un discorso molto articolato, ma sul quale mi sono trovato d'accordo al 100%, insomma. Questo per dire che, cioè, in realtà non esiste oggettivamente una questione, ovviamente i disguidi nella vita dopo tanti anni. Poi dopo io sono stato invitato anche a un podcast con Simone Cognome, abbiamo parlato di cosa sarebbe dovuto diventare il podcast, lui non c'era fisicamente ma era in chat, quindi insomma cioè, io penso che non ci siano più problemi, insomma, di questo tipo, insomma. Fa piacere pensare al fatto che non siamo grandi amici, ma che comunque, voglio dire, alla fine ci sia un buon rapporto di diplomazia. Ma ecco, sì, diciamo, ma infatti quella testa di cavallo nel letto è di buon auspicio. Esatto. No, ma queste guerre tra poveri, davvero, tra podcast, cioè. No, vabbè, era successa una cosa che. Che dal suo punto di vista. Dal suo punto di vista, lui c'aveva ragione. Il problema è che non ero stato io. Cioè, solo quello, insomma, volevo dire. Comunque, grande Bruno, grande Radio Anziano, che tra l'altro da martedì 24 alle 8. Tutti i martedì e i giovedì su Runtime Radio possiamo ascoltare la prima storica stagione di Radio Anziano, con il quale ovviamente abbiamo fatto amicizia, e io oramai non faccio altro. Questa estrema sudditanza a Runtime Radio, cioè, ma doveva fare Radio Anziano. Infatti ci doveva andare a fanculo, ma probabilmente ci manderà dei file dove sotto fanculo. Ascoltati al contrario, esatto, fanculo Runtime, fanculo Runtime. Diretti proprio, nel senso del contrario. Esatto. Troppa fatica. Va bene, dai ragazzi, comunque riprendiamo il Gwen, e poi siamo partiti da Catanzaro a Gwen, a Bruno Barbera, alle discussioni improbabili, insomma, è bello. Ci manca solo di parlare di hard disk, guarda. È vero, hard disk. Salutiamo Paganini nel frattempo. E vabbè, quindi. E della mossa marrone. Ma in realtà, questa è la puntata che non deve più esistere. Mamma. Ma quella si chiama la manovra marrone. La brown manuva. Esatto. No, io però se dopo. Allora. Vi devo chiedere un'interpretazione di una. Siamo pronti. Allora, oggi, a proposito di Twitter, faccio un excursus di Twitter di vita vissuta mia, invece di andare a beccare tutto quello che è successo ad altri. Mi sono trovato oggi a discutere con delle persone con cui poi, insomma, interagisco anche abbastanza abitualmente, in riferimento all'ennesima brutta storia, al femminicidio che è successo sabato ad un locale che tra l'altro anche conosco, che si chiama Brado, sulla Tuscolana, dove questa tizia aveva avuto questo incontro, chiamiamolo chiarificatore, con l'ex, che però aveva cattiva intenzione. Lei si è spaventata, si è andata a chiudere in bagno, poi i gestori del locale pare l'abbiano fatta uscire perché disturba, insomma, tutta una serie di brutte nefande storie, che è finita nella peggiore delle modalità, perché questo tizio ha tirato fuori la pistola e ha sparato uccidendo questa ragazza. L'ex compagna, poi. Sì, l'ex. Ora, qual è il punto su cui oggi mi sono andato un po' a intrigare nei discorsi con altre persone? Tra l'altro, iniziando a parlare con delle donne di questo argomento, cioè il fatto che si sta cominciando a dipingere in maniera, secondo me, ossessiva, il fatto che l'uomo di base è un mostro fino a che non dimostra il contrario. Ora, io la sto molto asciugando e molto generalizzando, o meglio, molto banalizzando, semplificando, ma io avevo in risposta ad una delle varie persone che giustamente dicono di sentirsi in pericolo, risposto sì, però ragazze, io vorrei anche dire una cosa, sta diventando mortificante per chi è il classico maschio cisgender come posso essere io, legge sempre ste cose e pensa che già se passo di sera sul marciapiede dove c'è una donna, quella deve pensare che io sto lì per ammazzare lei, sta cosa è quando invece deve ammazzare altro. Io penso no, sto facendo un discorso serio, sì, Marco. No, però io penso che sta paura c'è sempre stata, no, nel senso in generale, no, perché comunque noi dobbiamo sempre considerare che noi veniamo, diciamo, da un'esperienza che è completamente diversa. No, però aspetta, diversa. Io però volevo arrivare al succo di ti sto facendo questo era un incipit, perché poi ci sono, sai, una serie di persone, sono più spesso donne ma anche uomini, che poi vanno a cercare la radice del problema in qualcosa che trascende, secondo me, il succo della cosa, e si vanno a perdere nel patriarcato e cominciano a scrivere queste cose che è colpa del patriarcato. E a me a un certo punto mi parte la scimmia, perché dico: allora signori, il patriarcato sarà anche una cosa superata, da biasimare, siamo in un'altra epoca, ma il concetto che il patriarcato significa violenza sulle donne, se permettete, anche no. Non sto difendendo il patriarcato, perché fosse per me, ma anche sti cazzi del patriarcato, però che cazzo c'entra il concetto di che il patriarcato, no, che nel patriarcato su questo mi spiace, non posso essere d'accordo. Io ti dico su cosa noi veniamo da una cultura maschilista, indiscutibilmente. Certo, cioè, ma io non lo sto difendendo. Come ho detto giustamente nella prima puntata di Reset, ad esempio, cioè noi abbiamo depenalizzato, anzi abbiamo modificato alcuni aspetti del codice penale che, diciamo, erano indulgenti verso l'uomo che sparava la donna quando la beccava in fragranza di corna, no? Ad esempio. Abbiamo avuto fino agli anni '80 il delitto d'onore. Appunto, quindi c'è questa è una radice culturale, Walter, e questa radice culturale si è riflettuta in 100 milioni di altre situazioni, compreso il padre che mena la madre e ti sta zitta, o il padre che mena la figlia e ti sta zitta, buona lì. Quando queste persone ci hanno paura in un contesto come questo, allora io non sono stato d'accordo sulla distinzione del femminicidio dall'omicidio, perché quello è un altro discorso ancora. Però indiscutibilmente tante ragazze, mi è capitato di trovarmi in situazioni dove magari sotto la metropolitana da sole, e magari vedevano a me che io sbucavo fuori, e magari, cioè, lì per lì se tendono a mettersi sulla difensiva. Uno, perché sono comunque più soggette a subire la violenza, e due, perché culturalmente purtroppo vengono da quel tipo di situazione. Poi è chiaro che creare il mostro in senso assoluto, che ogni uomo è potenzialmente un assassino, è una stanzata. Il problema è che, come in tutte le cose, la polarizzazione, invece di risolvere un problema, ne crea altri accessori, e non aiuta ad analizzare la radice dei problemi veri. L'esempio del tizio è che questo qua ha ammazzato lei perché è una persona ossessionata. Ma sto tizio, che se tu vai a leggere anche quello che scriveva sui social, eccetera, sicuramente era un pazzo disturbato, che ovviamente si è sfogato col bersaglio più semplice possibile, ma che in realtà il chicchero gli poteva partire, sì, e poteva sparare al vicino di casa, come quello che non ha sparato al vicino di casa, ha sparato il fatto in sé non lo anche mette in discussione nella sua gravità. Aggiungiamoci anche che queste ragazze vanno dai carabinieri dalla polizia e dire: guardate che succede questo, e nessuno ne prende mai sul serio. Anche questo è un indice culturale, perché poi alla fine quante di queste ragazze sono state ammazzate e poi alla fine vedi che avevano già fatto denunce su denunce, perché questo è un'altra cosa da considerare. Lì il problema è che magari neanche un granché da fare legalmente, il problema è che c'è lì il buco, sai, che andrebbe a essere coperto. Sai, c'è niente da fare, che fai? Cioè, fai comunque, cosa? Ripeto, ragazzi, ci sono dei buchi che andrebbero coperti. Io non discuto il problema, io discuto la reazione, la generalizzazione del mostro. Questo purtroppo, cioè, sono d'accordo. Anche perché poi un'altra persona ha sciorinato dati secondo cui, dice dati Istat, io poi non li sono andato a verificare, se cui il 30% delle donne hanno dichiarato di aver subito violenza nella vita. Il 30% delle donne. Può essere. perché per, tu defini, cioè il problema è la definizione di violenza. La violenza è, allora io guarda, cioè, mi è capitato una volta statisticamente con la mia essere... almeno uno dei noi tre deve aver menato una donna qua dentro. Menato nel senso che non esagerare, violenza, cioè, su una donna, no, anche perché una persona una volta fare mi trovavo... più violenza su più donne, okay, anche quindi. Lì però facendo allora, una io media... una volta mi trovavo sull'autobus con la mia ex ragazza, se vedo lei si rigidisce e dico che c'è lei cercava di farmi capire stai zitto perché si vergognava della situazione perché c'era il vecchio gli stava a toccare il culo, è una violenza, no certo, ma io non ho capito, non disputo. Allora quante ce ne stanno queste cose? Ce ne saranno il 30%, forse non è il 30%, sarà il 20%, ma io sono convinto che la maggior parte delle donne hanno subito determinati atteggiamenti, sono straconvinto perché me ne rendo conto, l'ho visto anche, cioè nel senso, non avendoci mai comunque avuto questo tipo di impulso, ho visto tante volte sull'autobus situazioni, ragazze si incazzavano perché c'era quello che si struciava o sul, cioè poi sui mezzi non ne parlavamo, no? Quindi dai, c'è sta, dai ragazzi, cioè non è che il discorso non c'è sta. L'estremizzazione e l'assolutizzazione di questo tipo di discorso, sono d'accordo con te che per me è sempre un errore, perché comunque allora Marco, io, te, allora siamo tutti potenzialmente delle persone che ammazzano le donne, cioè, potenzialmente sì. Noi allora siamo potenzialmente delle persone che ammazzano chiunque, cioè nel senso non a questo punto chiunque è potenzialmente ammazzato. Esatto, siamo esatto. Un gradino sotto i talebani nella scala sociale, il problema è questo. Tu ci scherzi, però vedi che sono uomini. Nella puntata che abbiamo fatto, l'ultima sulla libertà del Grande Reset, Francesco ci racconta delle sette ultrareligiose che ha gente che praticamente procrea, no, col i disordinati informati. Disordinati informati, ok. E vabbè, quindi vedi, non ma questi cazzi. No, me posso ricordare. Scusa, ha fatto la punta al cazzo inutile. Della gente che procrea praticamente col buco sul lenzuolo. Perché allora tu, noi sappiamo con i talebani, sappiamo con l'Islam, ma poi noi a quanto siamo uguali, se non peggio. Vabbè, cioè, però quelli sono veramente casi per limite, anche lì. Cioè, sì. Voglio dire. Tu dici? Sai quante sette cattoliche estremiste esistono in Italia? Sette. Tra i focolarini, i catecumenali, tutte le cose. Sì, però non vanno, non so quelli del. Cioè, col buco nel lenzuolo non ci arrivano manco, sì, loro. Non arriviamo a 30 milioni di persone. Cioè, comunque sia. A 30 milioni di persone, come così. Se no, allora i Novax sono veramente più dei Vax. Ma quello che dico è, vabbè, che non, ragazzi, è che tu se puoi. Se interessa l'argomento, c'è il libro nuovo di Vanni Santoni, ex premio Strega, che si chiama La verità su tutto, che parla esattamente delle sette religiose in Italia. Fotte sega di se te dovessi di. Sotto forma. Ah, di romanzo. Romanzo, quindi, tutto quello che include la religione non mi interessa, che sia una sesta. È sempre uno studio antropologico, tutto sommato. Antropomorfo, non lo so. Antropomorfo, non lo so. Antropomorfo, va bene. Siccome i libri di Vanni Santoni sono molto belli, tipo La stanza profonda, che parla indirettamente dei giochi di ruolo, io ero incuriosito su sta roba. Mi sono trovato un libro sui complottisti, tra virgolette. Ma è bello che Buccio legge tutto. Sì. Beh, dammi una roba che ho stampato. Non l'ho mai sentito proprio. Poi te ne parlo in separata sera. Sì, va bene. Non sono degni gli altri. Allora, cerchiamo di alleggerire un pochino la questione. Parentesi aperta e chiusa. Siccome io tendo a farmi volere bene dalle persone, anni fa. Ma questo è ironico oppure è vero? Cioè? No, è ironico. Anni fa frequentavo una persona che andava spesso alle riunioni dell'Arci. E mi ricordo una discussione con una ragazza che credo fosse la direttrice di... Guarda, non te voglio romper cazzo, aspetta, scusa Buccio, non te voglio romper cazzo. Arci, definisci Arci, perché Arci... Arci, il circolo Arci. Sì, ma Arci ha 50 milioni di declinazioni. Nel caso specifico, era una ragazza che credo fosse la direttrice all'epoca di Arci Lesbica di Bari, okay. Si chiamava ancora così, che una volta ero anch'io presente, e guardando la ragazza... Ero anch'io lesbica. Anch'io. Le disse: vedi, tu sei venuta con un uomo e lui in quanto uomo è un potenziale stupratore. E io le risposi: tu in quanto titolare di un paio di mani sei una potenziale strangolatrice. Ma sì, ma è ovvio che questa è ideologia, allora, cioè questa è ideologica, un'affermazione del genere. Questo però è proprio il femminismo, quello completamente distorto. No, manco, perché Arci Lesbica e il femminismo sono come i petti rossi e il mare, non c'entrano un cazzo, è proprio una questione di come ti posso dire, che hai deciso di fare una guerra, sì, hai, sì, deciso, chiaro, che qualcuno è il nemico, perché è ideologico, sì, cioè. Sì, ma chiaro, il problema delle polarizzazioni e delle ideologie è che tu devi avere un mostro contro cui prendertela. La politica c'è campa di queste cose. Bush ci vinceva le elezioni così. Anche Trump. Beh, sì, anche la Meloni, cioè voglio dire. Chi è che sta morendo nel frattempo? Sempre io sei Puccio, i costumi di, dell'altra settimana. I costumi, sì, cioè i costumi. Vabbè, ma se ne andrà fra un paio di settimane. Vogliamo andare. Prendetevi il raffreddore, che brutto. Vogliamo andare al ristorante. Andiamo al ristorante, dai. Dai, dai, Marco. Cioè, dai, facci sognare. Ristorante, raga, però andiamo prima dal. Allora, prima con Marco, sì, e poi Francesco. Sono un ristorante Marco, che mi sono stati, sì, suggeriti uno di cui non ho il nome, purtroppo. Ma è un ristorante che ha avuto 5 stelle. Però c'era un po' di indecisione nel volante, cioè concettualmente nel recensore. Il recensore ha scritto come recensione non so cosa dire, perché però 5 stelle però, no, perché era talmente in estasi che non trovava le parole. No, invece io ce l'ho una motivazione. Perché tu vuoi mettere le 5 stelle, quando tu hai messo le 5 stelle Google ti dice: vuoi scrivere anche la recensione invitandoti, perché ti dà pure i punti, capito? E tu sei lì, senti cazzo, e tu dovere. Ti senti in dovere di doverlo fare, ma io non la voglio fare la recensione, però insomma alla fine quindi dici, beh, non sei obbligato, però ti dai i punti, cosa morale, non ah, ok, quindi non so, ma infatti c'è un minimo di caratteri, sì, per la recensione, sì, se no non, sì, ti danno i punti, boh, cioè che quelli per scrivere non so cosa dire, ah, può darsi, sono sufficienti, ma non è che lui voleva esprimere un giudizio, voleva esprimere la propria fede politica a queste 5 stelle, no? Può darsi, ah. E cos'altro dire, infatti? Non so qual è la sua fede politica? 5 stelle. Ah, ok. Cos'altro dire? Cos'altro dire? A cui avessi dovuto scrivere. Invece mi è anche stato suggerito la Maddalena, penso che sia un resort, comunque una, non so, un hotel. Ottimo servizio, personale discreto e prezzi ottimi, veramente un'offerta da non poter rifiutare. Una stella. Vabbè, questo l'abbiamo detto pure l'altra volta. Vabbè, ma ci sta. No, insomma, la gente si sbaglia, secondo me la gente si sbaglia. No, questo... Ma poi che cazzo vuol dire personale discreto? Questo fa dei cazzi loro. No, cioè, perché tu l'hai dato un voto, invece di essere buono è discreto. Ah, è discreto. Quel no. Discreto è una stella. Quindi non discreto nel senso che usa discrezione. No, cioè proprio il voto. Non erano abbastanza buoni, quindi. Ed è una stella solo per questo, infatti. Oh, siccome qui hanno fatto al contrario, cioè prima ha scritto la recensione, e poi hanno proposto di mettere stelle, non sapeva che cazzo. E ha messo così. Oppure è andato avanti, e quello giustamente è andato avanti. Se non metti stelle, è una stella. Però attenzione, perché c'è un'altra stella. Molta poca attenzione alla privacy. Invece lì diceva che c'era, che era discreto. Allora, come dicevo io, era discreto come voto. Ci è andato mio zio per una terapia e dopo qualche ora l'ha saputo tutto il mondo. Molto male. Penso adiremo le vie legali. Adiremo. Scusa, ma che loca, che cos'è la recensione? È la Maddalena. Di cosa? Non so se. Ah! Cioè, tu non lo sai che cos'è la Maddalena? No, però qui c'è. Aspetta. Ma scusa, la Maddalena non è un carcere? No, sì. No, ragazzi, la Maddalena è la clinica dove hanno beccato, sì, oggi il Matteo Messina Denaro. Se no, non si capivo. Allora, sempre la Maddalena. Ok, perché non si è costruito bene. Ottimo personale, qualificato e gentile. Purtroppo, però, la clinica non è un buon luogo per giocare a nascondino. Ah, ma tutte oggi queste sì, sono sì, uscite. Sì, te beccano sempre. Te beccano sempre. Te beccano sempre. Vabbè. Sono cose che succedono. Tra l'altro è un danno incredibile per la clinica. Cioè, non so. Cioè, tutto sommato, qui ci trovate gente che. Beh, no, dai, ragazzi, se è vero che questo danni si andava a fare chemioterapia, allora, la devi chiudere per mafia come me, per non sapere né leggere né scrivere. Infatti, sono indagati adesso. Ma non so se avete visto che stava anche Schillaci. Sì, che tra l'altro ha scritto un'intervista, dove dice pareva il Far West. Vedi un po'. Cazzo, tutti i terreni, ricordiamo. Ma lui era andato per il trapianto di capelli, con Matteo Messina Denaro. No, francamente quando l'ho letto mi sono un po' preoccupato, perché voglio dire, visti i precedenti di Vialli la settimana scorsa, ma pure Schillaci eviterei. No, perché Schillaci non ha giocato alla Sampdoria. No, infatti. Però hanno giocato nella Juve. Attenzione. Ricordatevi quell'anno, nel 90, che faceva faville. Ai. Io non lo so, vabbè, dai. Che ha detto qualcosa Salvini? No, allora no, voi ve lo ricordate Schillaci con gli occhi da matto ai mondiali del 90? Ma quella era cocaina, però. No, dai. Non era cocaina. No, dai. Comunque ci spostiamo qui sempre nella zona. C'è un ristorante, il pub 1830, che è bellissimo. C'è un commento che religioso, possiamo definirlo religioso in qualche modo, catecumenale. Okay, c'è una bestemmia. No, c'è il buco nella tovaglia. No, è proprio c'è il buco nella tovaglia, quello probabile, ma per altre cose. Meglio la Ghenna che tornare qui. Sul menù ci sono. Meglio la Ghenna. La Ghenna. Ghenna. È un termine ebraico, la Ghenna, l'apocalisse. Ok. Sul menù ci sono molte birre su cui scegliere. Su cui cioè, cioè, tu devi scegliere, devi scegliere sopra le birre, tutte le birre, cioè, non è facile. E poi ti rifilano sempre una messina. E qui torniamo a oggi. Ah, messina denaro, senza esatto. Denaro. Però senza denaro, allora ce lo metti te. Con la scusa che le hanno finite. La musica è più vecchia di Matusalemme. E le formiche invadevano i tavoli con ondate di. Ah, questo c'ha proprio citazioni bibliche. Sì, sì, cioè, ci mancano le cose. Le cavallette. Le formiche invadevano i tavoli con ondate di ogni 15 minuti. Pessimo. Cioè, c'avevano la scadenza, c'avevano il timer. Sì. Perché la visita guidata. Ma tu lo conosci sto locale? Sì, sì. È il 1830, quella via San Martino. Te ce porto, guarda. Ah, io, guarda, a me mi portate sempre nello stesso posto. No, no, lascia. Se non ci andiamo, ci sarà un motivo. Esatto. Perché ci sono le ondate di formiche ogni 15 minuti. Okay. Scusa. E poi c'è stato lì. Poi te devi sedere sulla birra. Poi te ce portavo, però. Cioè. Allora, sono stata ieri sera, questa da una stella, ma ci descrive anche perché. Sono stata ieri sera una serata di gruppo a menù fisso, servizio lento, pessimo, abbiamo atteso molto per i fritti, eppure tanti sembrava che dovevamo saziare solo con quelli. La pizza ha un gusto e attesa a lungo, poi si sono dimenticati di portare altra pizza. Infatti hanno portata tardissimo e quasi per farci contento. Ma posso fare una domanda? Ma le persone che fanno queste recensioni, a parte che sono in carognite, no? Perché di solito chi fa queste recensioni sono carognite. Ma non sanno scrivere. Chissà l'italiano Simone, non fa le recensioni Simone, su Google. Il cellulare non è che ti qualifica, il cellulare è uno strumento alla portata anche di chi non dovrebbe avercelo. Ragazzi, no, però magari, io parlo della base della ma magari, no, ma magari, aspetta, scusa, rispetto, noi cerchiamo queste, però ci sono anche quelle scritte bene. Ah, esatto. Ok. E poi magari questa persona è straniera, non è straniera. Mi dispiace. Infatti, mi dispiace poiché mi piace il locale, la loro musica c'è nel mio cuore, capito? C'è mamma mia. Lo frequento da 4 anni e mi sono sempre trovata bene. Ci sono sempre tornata volentieri, ho trascorso bellissime serate con bella e buona gente. È adatto anche ai bambini e mi fa piacere davvero. Però ieri sera in oltre non hanno chiesto Green Pass ed era troppo affollato. Ma questo ha scritto quando? 8 mesi fa. 8 mesi fa non si chiedeva già più il Green Pass, mi sa. Forse per questo, ma. Ma lei non lo sapeva. No. Vabbè, comunque, vabbè. Poi è bello che ecco, lì antropologicamente capisci l'italiano meglio, no? Quello che. No, l'italiano questo non lo capisco. L'italiano non lo capisco. Sì, no, lo so. Dico, la persona che ha scritto ha implicitamente ammesso. No, perché io ci sono venuto un sacco di volte, sempre tutto bene. Ma stasera. La volta che una cosa è andata storta, devi morire de bestemmie. Esatto, e questo è un po', capito? Questo invece c'è un'altra recensione di uno che ci è andato per la prima volta. Poi vi racconto una cosa, ragazzi, e poi passiamo a Francesco. Sinceramente, però aspetta, questo va letto con la punteggiatura giusta. Sinceramente tutti i miei amici mi parlavano di questo pub e non c'ero mai andato. Una volta che mi sventura per andarci, appena entro mi metto al banco per pagare una birra alla fila a non finire, nessuno ti si fila, arriva fortunatamente la cameriera e vedo dei tavoli vuoti, mi dice no, quelli sono prenotati, sono purtroppo del figlio del proprietario, dorme sulla panchina come se ci fosse la mafia, non ti fa sedere sul tavolo, praticamente 30 minuti noi non te la fibbia neanche uno, perché sicuramente sono di qualche abituali cliente che non ha prenotato ma che dorme sul tavolo. Io sinceramente me ne sono andato, sembra più una birreria trasandata, anche se in fin dei conti un pub sicuramente dà il meglio, per quanto mi riguarda una stella pure troppo. Basta, saluto il piazza. Bravo Gualdi. Ricordiamo Gualdi. Bravo Roberto. Questo brano si intitola Enfisema. Bravo Gualdi, che ricordiamo, insomma, il primo singolo di Gualdi si chiamava Un tanto al chilo, ricordiamolo. L'album si chiama Tanto al chilo, ma questa traccia in particolare si chiama Una stella e stacce. Una stella e stacce. Esatto. Ok. Ci volevi raccontare? Volevo raccontare una cosa, no, la racconto anche se sbadiglio, perché praticamente recentemente con Michela siamo andati a mangiare sushi. Strano, non lo fate mai. Esatto. Allora, però, ragazzi, c'era una coppia al tavolo accanto a me. Io poi lo so, dice Michela, si incazza, diceva fatti i cazzi tuoi. Io però non ce la faccio, perché c'ho sto problema che se sento, cioè se mi arriva all'orecchio, poi si attiva il multitasking, praticamente. Cioè, nel senso. E vabbè, allora, dice, no, perché sai. Fa, io ho questa questione del glutine, quindi dovrei prendere tutte. Il cameriere stava lì, ma abbiamo le cose senza glutine. Però c'è il problema che io poi sono allergica al nickel. E già, vabbè, guarda, siamo a mezza la settimana, quindi in teoria possiamo anche, siamo attrezzati anche per questa questione del nickel, non c'è nessun problema. Certo, se viene il weekend era un po' più complicato, cioè, però a mezza la settimana. E poi dopo io ci sono certi tipi di alimenti che non li posso mangiare, lo so, sono un po' complicata, scusa, ti prego, non ti arrabbiare, sono un po' complicata. Intanto l'uomo col quale era uscito, secondo me non vedeva già l'ora di andarsene a fanculo. Lo sperava, perché che lui ha pensato, stava disinstallando Tinder, no, dal cellulare, no, sperava questo, che almeno riscopasse da quella sera. No, perché secondo me gli è no, subentrato, perché Minimo era allergica anche all'artice del preservativo. Esatto, no, sì, il preservativo, la gomma, la gomma. Scusa, ma che se io scusa, sei allergica pure al cazzo, perché sennò c'è, cioè, che senso, brutalità. Poi alla borra, no, alla borra. Poi, devo ragazzi, vedere sta cosa del patriarcato dopo, no, l'ultima affermazione. Però riprendiamo quel discorso. Però c'è da dire una cosa che è interessante, perché qui se c'è l'uomo è comunque artefice di un certo tipo di cultura, la donna poi c'ha anche, insomma, anche lei le sue mitologie, no? Perché se tu vai a vedere, ok, il discorso del glutine, in particolare l'allergia al nickel, sono pure cose serie. Quella è molto, molto pure cose pericolosa. Serie. Allora, però tu ci hai mai fatto caso che sono sempre solo donne? Cioè, tu hai mai conosciuto una persona al ristorante? Hai mai visto un uomo al ristorante che caga il cazzo sul nickel? No, perché quello magna e poi sul monossido di carbonio. Va a casa, caga e sta bene così. cioè l'uomo è più semplice. Una volta, cioè, io la cacarella e te la collavi con la dignità. Esatto. Cioè, vabbè, così. Allora, quindi io praticamente quando andavo al ristorante. Pizzi, tu sei allergico al nickel? Cioè, no, io sono allergico al dolcetto, alla torta caldo, di cioccolato col cuore caldo. Quello sono proprio allergico io, quello. Nel senso che se so con la serata con delle persone che mi hanno un po' rotto i coglioni, io prendo sempre il soufflé in maniera tale che poi hanno proprio di cioccolato, andare, perché come scusate raga, perché mi dispiace, ma c'ho un'emergenza, ma è rischioso, però poi puoi dolce anche fare finta. Esatto, puoi anche fare finta senza cagarti nelle mutande, no, sul tragitto, no, non so credibile, perché usai il metodo Stanislavski. No, esatto, non so credibile, quindi devo usare proprio la recitazione reale, real recitation si chiama. Lui si medesima come fa Daniel D. Lewis. Salutiamo tutti quelli in chat, che stasera proprio pulula la chat, no, perché le altre sere, cioè, che ne so io. No, che poi in realtà non si palesano perché sono vigliacchi, ma io lo vedo che ci sono. No, ma tra l'altro la cosa bella è che ultimamente, nell'ultima settimana e mezzo, è stato una rialzata importante di ascolti in runtime. Però proprio alle 21 si vede che proprio la gente ha altri cazzi da fare, anche giustamente, cioè, non vi contestiamo per questo. No, assolutamente. Vabbè, volevo raccontare questa impotenza, cosa. Impotenza, sterilità e vaginismo su tutta la tua stirpe, l'anatema che prende tutti. Madonna, così non ti riproduci. Il vaginismo non so cosa sia, ma deve essere una cosa brutta. Io pensavo che fosse una cosa. È a corredo di una venerazione, no, invece. È a corredo di impotenza e sterilità, perché impotenza e sterilità li messi là possono sembrare anche un vantaggio. Però ci mette anche forse il vaginismo. Forse sterilità che l'impotenza. Così, guarda, tradizionalmente è un vantaggio, sì. No, beh. No, forse la sterilità, magari, cioè la sterilità è per quello che ci abbina il vaginismo, così togli anche la parte ludica. Ludico ricreativo. Vabbè, no, vabbè, perché non sai che cos'è. Francesco, dai. Niente, che dico, oggi stavo tornando in treno e a fianco a me c'era un tizio sulla sessantina con gli occhiali da sole che giustamente, perché usare le cuffie per non dare fastidio agli altri quando posso prendere il telefono a massimo volume e piantarmelo nell'orecchio, cioè, e quindi ascoltavo questo telefono, questo video, così, che se sentivo in tutto il treno comunque. Era tipo uno che ancora parlava di Bergoglio, eccetera eccetera, Ratzinger è il vero Bergoglio, i satanisti e qua là, no, ma che coglioni, bellissimo, no. E le catechesi, dobbiamo fare le catechesi, perché qua è il genere, un mischione di tutto, perché poi tra l'altro stavo seguendo una call che si collega a un'altra cosa, una call tra colleghi per seguire dei casi clinici, dei feedback dei casi clinici praticamente, quindi sentivo e non sentivo, però a un certo punto, la cosa bella è che di fronte a me c'era un'altra mia collega, che lei scende a due fermate dopo rispetto a questo io. A un certo punto ha detto: ma che stava sentendo quel vecchio? No, sta sentendo questo, quell'altro. E ci siamo messi a sparlare sto vecchio. Sì, e il vecchio si era seduto dall'altra parte, cioè dall'altra parte, che ce ne siamo al porte e stavo là. Però forse non ci ha sentito, dai. Vabbè, ma anche se va sentito va bene. Sì, infatti, anzi, è meglio. Sì, sì, sì, infatti. Ma la cosa bella, cioè, stava seguendo praticamente questo caso clinico bellissimo, che per voi, diciamo, di solito nelle fiction di amnesia e disturbo di memoria, io non mi ricordo più chi sono, oddio che devo fare, quando in realtà è la norma è che non riesci più a memorizzare cose in poi, diciamo. Quindi è molto più raro trovare qualcuno che si dimentica quasi tutto quello che c'è stato indietro, e spesso è più correlato a dei disturbi psichiatrici, diciamo così. Comunque c'era sto caso di questo tizio che, vabbè, non si ricordava più un cazzo dei concetti, di come era prima, però dalle cose, diciamo, comunque capiva, cioè sentiva, dalle cose che si era esplorate, comunque la mia collega ha esplorato che bene o male capiva, cioè, che ci sono state le elezioni, che vinta Meloni, eccetera eccetera, solo che non aveva più il concetto di centrodestra, non sapeva più cosa fosse il centrodestra, Egrit Badais, solo che aveva posso avere la stessa malattia, scusi. Solo che non avevo mutato il microfono, ma lo sentiti con lei. No. No, si sono messa a ridere. Ma gioia che mi ero dimenticato di cambiare il nome in Francesco Di Muro. Sono entrati come Lobby Frontale e tutto. Ma che cazzo è Lobby Frontale? Si sono messa a ridere. Li è conquistati subito, diciamo così. Bravo, fatto. Non mi inviteranno più in queste cose. E va bene. E che è un vantaggio anche quello. Esatto. Comunque. Come si distrugge la carriera accademica di un... di un accademico. Di un accademico che accademizza. Clinica. Vabbè, comunque, vabbè. Ovviamente, parlando dei complottissimi complottari, tutti quanti mo stanno esplodendo. Mattia Messina Denaro, è tutto già stageato, cioè senza, era tutto qua già programmato, che già si sapeva, guardate le telecamere qua già sono posizionate ad aspettarsi ad arte queste cose qua, lo stato mafia adatta, questo dimostra, cioè c'è bisogno di questa cosa qua per dimostrare, diciamo, la tratta di strato mafia, sti cazzi. E poi a caso sto coso che metto su diretta Runtime Radio, praticamente il buco dell'ozono si sta chiudendo, l'annuncio dell'OMO, il commento sotto: ecco, ora possiamo dire che la grandezza del buco del culo della maggior parte degli italiani che credono a queste notizie inversamente proporzionale a quelle del buco in questione. Così, debotto, senza senso. Poi sempre dallo stesso canale, un attimo che devo riprendere e fargli gli screenshot. Mi sono ricordato il disco che del personaggio di Verdone che voleva fare questo disco che si chiamava Tappiamo sto buco. Cazzo di film era Lupo al Lupo. Potresti farlo anche in mezzo alle ortiche, non basti tu sola, dai, porta le amiche, dai Cinzia, dai. No, ma cioè, perché occupate i vostri neuroni con sta roba, cioè? Ragazzi, lo stesso canale, sto tizio che è in mezzo a strada, che ne so, vede, cioè, dalle mie parti si chiamano Pandoshk, una Pandoshki terra che non so dove vede simile a una persona e dice: la montagna vuole dirmi qualcosa, e crea una vattene a letto sicuramente umana. Però questo denota che cognitivamente, cioè comunque ste complottisti, ste cose che hanno sta tendenza a vedere qualcosa in qualsiasi cosa, a creare conclusioni che fluiscono, diciamo, che conclude, cioè comunque che concettualizzano delle robe, cioè, per dire, non è solo che, cioè, è proprio una forma mentis che poi si va in stilla tutta sta roba qua, è una forma dementis. Dementis, a voglia. E poi c'era pure un canale Reader Rabiottis, no, canale. Beh, c'era, mi ricordo, c'è un tizio su YouTube, adesso non mi ricordo come si chiama, cioè adesso lo vado a cercare, che praticamente lui è un barbone fondamentalmente, cioè un clusciare, un senza tento, toscano. Tra l'altro lui era anche un caso psichiatrico, però c'è stato un periodo di tempo in cui praticamente lui era stato sotto cure abbastanza, insomma, in maniera abbastanza seria, cioè nel senso lui si era fatto curare, pur essendo tornato in mezzo alla strada. Comunque lui ti raccontava un po' qual era la sua malattia, qual era il suo problema, che tipo di cure faceva, era una fase lucida, insomma. Poi piano piano, però, più lui ovviamente continuava ad andare in giro e più evidentemente non prendeva le medicine o quello che cazzo era, e più ritornava nel delirio. Infatti la gente gli diceva: guarda che stai a riperdere il contatto con la realtà, cioè nel senso, gli scrivevano, no, sotto. E praticamente, cioè, lui fate i video deliranti, cioè tipo che lui il semaforo e comincia a guardare il semaforo mentre che sta lì, prima addormentasse in mezzo alla strada, sale il semaforo e il semaforo ti sta spiando perché lui non sembra che sta lì a segnarti se puoi passare, ma in realtà è una telecamera che riesce a guardare dentro praticamente il tuo corpo. Sicuro che il canale si chiamasse Roxy Bar, vero? No, però aspetta, modulo cerco. Però lui era interessante perché all'inizio, nonostante lui ha fatto questa scelta precisa, cioè lui voleva, non gli fregava un cazzo, cioè non c'aveva alternative, anzi lui si organizzava anche bene con la pensione che prendeva, perché quel poco che spendeva se lo gestiva, capito? Cioè nel senso, quel poco che prendeva. Poi c'aveva sto cellulare, lo teneva sempre carico, comunque c'aveva la lucidità di farsi un account YouTube, no? Vabbè, quindi, vabbè, senso. Però niente, aspetta, me lo vado a cercare. Intanto Francesco, scusa. No, niente, sono entrato nel canale dei terrapiattisti, però no. E ovviamente pure i terrapiattisti Mattia Messina denaro. Vabbè, che sta programmato e tutto. Una prova inoppugnabile della terra piatta. Ah, voglia. Cioè, vabbè, quelle sono le spugne più spugne, come ho visto, ma pure scientificamente sono proprio i terrapiattisti. Perché davvero per arrivare a pensare che la terra è piatta vuol dire che hai dovuto credere a tante altre cose prima di arrivare a quello. Quindi, una volta che arrivi a credere alla terra è piatta, credi a qualsiasi cosa. No, è troppo lungo, oggi mi scucci, legge troppa roba, troppo lungo. Però posso dire una cosa, al di là del delirio, ecco, cioè nel senso proprio del delirio allucinatorio che hanno queste persone, cioè alla fine se tu vai a vedere, a parte insomma che non c'hanno cazzo da fare, perché come succede qualcosa scrivono sti post giganteschi. No, ma io mi distolgo lo sguardo, ci stanno altri 30 post. Appunto, cioè, ma è appunto. Una roba assurda, cioè stanno sempre azzeccati qua. Eh sì, perché evidentemente non c'hanno altro nella vita, ragazzi, cioè dovete pure considerare questo. Non c'hanno altro nella vita. Però a volte mi è capitato di leggerne uno e alla fine, cioè se io mi metto lì per gioco a scrivere tutto un cazzabuio come magari abbiamo fatto scherzando noi tante volte e lo posti lì, cioè tipo proprio per cazzabuio proprio senza senso. E quindi mettendo insieme tutti le parole chiave, perché tu vai per keyword praticamente sì, lì. Sì. E praticamente secondo me da un'oretta rispondono, capito? Cioè se bisognerebbe fare questo esperimento qua. Che è la cosa che. Io ho iniziato a fare così, poi mi sono cagato il cazzo. Cioè non ce la faccio a starci. Però mi prometto che tre cose. Ma magari rispondo a quello. E mi ricordo che già, quando avevano. Era uscito il post, indagine indipendente per vedere cosa mettono nel siero. Ha detto: oh, Ian, sgamate. Già, guardate qua, da questo articolo qua che è uscito, gli misi tipo gli ingredienti del grog, praticamente. Presa la forfora di largo la grande. Soprattutto. No, non c'è, quella è per la bambola voodoo. La bambola voodoo. Eh sì. No, compreso alla fine e o peperone, che poi alla fine era salame piccante, però e o peperone. Peperoni. Vabbè, Puccio, che altro c'hai? Se no andiamo da Walter e poi Marco e poi chiudiamo. No, andiamo da Walter, che diciamo è stata una settimana abbastanza triste, ma... Esatto, settimana complicata, però c'è una domanda di cuore, aspettate, vai Walter. Ma allora no, io intanto una molto bella che è quella che mi hai girato tu, che ai cavalli piace essere cavalcati. L'ultima e la penultima, cioè ci sono due cose. Allora, i cavalli. Ma la cosa bella è che poi gli rispondono giustamente, seriamente, è bella pure la risposta, cioè è tutta articolata, tutte c'ha un senso. Il fatto che rivalutare pure la domanda, dice pure questa domanda c'ha un senso. No, nel senso che alla fine pure il fatto che c'è qualcuno e prova a darti una spiegazione ci sta anche, anzi è pure interessante tutto sommato se ci pensi, no? Però il problema è che da dove nasce la domanda? Cioè è chiaro che un animale penso che non, cioè, ma nessun essere vivente ami avere un peso sopra e doverlo portare. Simone, parliamone, cioè io capisco che no, vabbè. No, nel senso che al di là stiamo camminando come l'elefante nella cristalleria, delle battute a sfondo sessuale che ci possono anche stare, io non sto di a trombare, io sto di a camminare per ore con una cosa ingroppata sulla schiena, insomma, capito? Cioè, insomma, capisci che a me non mi verrebbe da fare questa domanda, ma la domanda più bella è quella del perché. Alcune etnie hanno il pene più lungo e la domanda è effettiva è E da che cosa deriva questo vantaggio genetico? Cioè, nel senso, c'è una motivazione antropologica? Non è un vantaggio genetico, tra l'altro. No, vabbè, però evidentemente no. Nel senso, comunque dice, vabbè, se ci sono delle razze che hanno il cazzo più lungo, perché sono evoluti? Cioè, qual è il vantaggio evolutivo, no? Il vantaggio genetico che ha portati a fare ad avere questa... l'elicottero col pisello, perché esatto, cioè, quella sarebbe stata interessante da sviluppare, ma vabbè, dai, lo facciamo. No, comunque, ragazzi, ho visto, perché poi l'avevi proposta pure tu, sarà che l'algoritmo di Quora poi a me tende a proporre quelle domande, però è vero che Quora è piena di domande sul dark web. Io vorrei spiegare a queste persone, e ogni tanto ci provo, guardate che non è come Google, cioè non è che accedete alla rete Tor e cercate spacciatore di droga e vi dà la lista delle... No, ma infatti una delle domande è bellissima, perché se avete mai avuto accesso al dark web, cosa si vede? Niente, cioè, come se tu apri come se tu apri una finestra e dici: oh, che vedi da finestra? Cioè, la stessa cosa. Io vorrei rubare le immortali parole di Leo Ortolani: la conoscenza è qui su internet, ma le donne nude ci impediscono di vederla. Esatto, esatto. E non solo nude, e basta. Insomma, Ortolani si limita nel suo. Nella sua esposizione comunque veramente ci sono tantissime domande, c'è molta curiosità sul dark web. Io veramente vorrei spiegare a queste persone: non si vede un cazzo, letteralmente, nel senso che se non c'è gli indirizzi dei siti Onion dove andare, semplicemente non c'è un motore di ricerca. Ah, c'ho gli Alivare Onion, internet. Sì, sì, già, esatto, all the way. Perché tutto il dark web, devi sapere, che è basato sulla metafora della cipolla. Cioè, della stratificazione, sia gli 2P che il no, ma comunque... Vabbè, ma magari un giorno uscirà una puntata di Security Corner. No, ma se va bene, Buccio ci stai più per culo. Scusa, io ho anche fatto delle proposte. Sì, sì. Chat, beh, vabbè, abbiamo verrà parlato. Pubblicata nel dark web. Tra l'altro, esatto. Infatti, dovremmo fare il primo podcast pubblicato sul dark web. Ma sai che non ci vuole veramente un cazzo? L'altro giorno ho fatto la prova per. Diciamo così, per spirito di testing, di provare a pubblicare un sito visibile esclusivamente sul circuito Tor. Non ti chiederemo chi te l'ha commissionato, però va bene. No, ero io che ho fatto un esperimento, ho fatto Hello World per vedere se era possibile pubblicare. La parte complicata è farsi dare l'indirizzo. Cioè, no, sarebbe figo fare runtime solo sul dark web. Cioè, senza... Mamma mia. Cioè, no, senza... Voglio ammettere così casiale. Il web è molto lento. Non ci puoi fare streaming sopra. Cioè, immaginati che è un internet pre-motori di ricerca. Tu immaginati un internet anni 90, proprio nella strutturalità, nella concezione, senza nemmeno la comodità delle URL canoniche. Quindi, cioè, senza poter scrivere www.quello che è. Questo è il dark web, tutto l'ipertesto. L'ipertesto. Beh, ma vabbè. Sì. Vabbè, comunque, al di là di questo, cioè, c'è stato lo zio di Michela che diceva: no, perché io conosco un amico mio che. Ha comprato un'arma, ha comprato una pistola su. Gli ho detto: senti, ma voi vi rendete conto? Che io capisco che tu non sai come funziona, cioè lo capisci, cioè ci sta. Però quando uno ti viene a dire una cosa del genere, prima ti credi a quello che dice, ti fa un sacco di domande. Perché se fosse così facile, no? Nel senso che lo faremmo tutti, no? Andiamo tutti sul dark web e andiamo tutti a comprare pistole. E volete sapere una storia interessante? Una storia, oddio. Qualche anno fa, l'anno che ci siamo conosciuti, Simone, più o meno, mi fu chiesto da un'azienda con cui collaboravo se potevo fare un corso sulla privacy avanzata a dei professionisti, no? E quindi alla fine arrivammo a parlare di Tor, del dark web, eccetera eccetera, quindi feci vedere un po' di cose, e molti di loro che erano abbastanza preparati mi chiesero di parlare di Silk Road, che era all'epoca il mercato delle sostanze psicoattive, sì. No, di tutto, sì, sì. Io gli dissi: guardate, gli italiani ce ne sono pochi, gli feci vedere che se affinavi la ricerca su Silk Road erano pochissimi i venditori di acquirenti italiani, che però c'erano altri mercati più piccoli su base regionale, tra cui un italiano, non ricordo come si chiamasse all'epoca, comunque la comunità da Gianni La Carogna, se può essere, si chiamava Cipolla, credo, una roba del genere. Lì, si volete vedere che riusciamo a fare un acquisto da qui. Effettivamente comprammo i bitcoin da un exchange con la carta di credito. Non mi ricordo che cosa comprammo. Credo una chiavetta USB dove dentro ci dovevano essere i dati di un call center che poi potevi rivenderti come contatti, per vedere se effettivamente poi questo l'avrebbe spedito e il materiale sarebbe arrivato. Quindi il corso finì, ci teniamo in contatto tramite una chat di WhatsApp, e effettivamente sta chiavetta è arrivata vuota, ma è arrivata. Vabbè, quindi si sono scancellati, è passata sotto la grande calamita, si sono smagnetizzati. No, infatti, ed era il motivo per cui, scusate, no, ed era il motivo per cui Richard Benson non vendeva i CD tramite internet, perché c'era la cellula fotoelettrica, cioè, c'è un dispositivo con una cellula fotoelettrica. Esatto, perché lui internet lo vedeva come una cosa nella quale passavano le cose e diventavano digitali come Tron, credo. Può essere, però lì, dato che lui ci ha fatto installare la cellula fotoelettrica, porca puttana, coraggio. Non c'è altro da dire. Dai, che tra un po' festeggeremo un anno dalla sua scomparsa. Sarà un anniversario sentitissimo. Okay. Sapete cosa manchi a questa trasmissione, come un pochino in tutte le trasmissioni di Runtime? La freno. No. Asset a caso di Richard Benson. È vero, ci organizzeremo. Ecco. Vabbè, perché c'è stato un lungo periodo in cui lo facevano talmente tutti che era quasi un po' come di inflazionato. Adesso si potrebbe rifare. No, però sai che è un Richard Benson che strilla, io ogni tanto ci devo buttare sempre. Ma ti ricordi che forse la prima stagione di OGM avevamo proprio la jingle machine di Richard? Poi la usavamo poco, ma ce l'avevamo. Può essere. Quando OGM non si chiamava ancora OGM, ma si chiamava Aperti per Ferie, una cosa del genere. Sì. Che roba, all'ufficio del Sbano, ti ricordi? Aperto per Ferie. A fa quelle scale, bucio de culo. Adesso le faresti in scioltezza. Adesso le farei meglio, sì. Adesso le farei. Alle 21.01 dopo la campana. Dopo la campana. Vabbè, ragazzi, se non c'è nient'altro, Marco, c'è nient'altro. Lo conserviamo per la prossima settimana. Tu però, scusa Gualdi, però tu l'altra settimana avevi detto che c'avevi un tema, io l'ho sentita la puntata, che poi hai detto ne parliamo la prossima volta perché ci vogliono 3-4 minuti per poterle parlare. Ma non so, dimenticato. Sei dimenticato, lo sapevo. No, c'ho l'ultimo commento sempre del Blue Pub, che per chiudere, perché sennò Blue Pub che è chiuso oramai, quindi... Per chiudere un pub chiuso? No, Blue Pub, pardon, del 1830. Che da una ci vanno bene adesso questi. Esatto, vabbè, no, c'ha 4 e passa come media, però ogni tanto qualcuno è scontento, come questo ragazzo straniero che ha un nome e cognome stranierissimi, non lo diciamo però. Ok, credo anche di aver capito chi è. Però scrive: sto aspettando la pizza da più di un'ora, una stella. C'ha ragione. Vabbè, non c'è sta tutto. Non mi sembra così. Ho sentito di peggio, insomma. Sì, poi era il giorno di chiusura, però questi sono altri dettagli. Cercavo di entrare, però non mi fanno entrare. vabbè. Yeah, ragazzi, io direi che si è fatta una certa. Tra l'altro non so neanche se si è fatta una certa. Vabbè, dai. Voglia se si è fatta. 22:21, dai, vabbè, chiudiamo 10 minuti prima del solito, perché insomma, mancano i contributi. 10 minuti dopo. Addirittura. No, vabbè, per colpa di Puccio che dopo. È colpa di Puccio che, avendoci avuto una settimana complicata, non era attrezzato. Puccio che si è fatto mandare da cuore. Da cuore, esatto. Io saluto e ringrazio Marco Gualdi. Ciao, vi saluto. Ah, forse ho trovato il tema. Vabbè, ciao, oramai segna, te lo memorizzo. Mandamelo a me, così te lo ricordo io. Sta qui nelle foto. Ok. Walter Sbano. Ciao, buonanotte, ci sentiamo domani. Carmine Puccio Console. Ciao a tutti. E Francesco Lobby Frontali. E ci sentiamo sabato notte. Ci sentiamo sabato notte. Ah, ecco, vi ricordo che questa sarà una settimana molto intensa. Giovedì sera torna Quando Eravamo Futuro con una puntata dedicata all'home video. Questo si è alzato da solo, che fa? All'home video, praticamente al pensiero digitale, al pensiero analogico, cioè, scusate. Stai quindi parlando al tuo pene. Questo si alza da solo, probabile. Sì, esatto. E mentre venerdì non c'è Runtime by Night, perché lo facciamo ovviamente di sabato per motivi legati all'ospitata. Ci sarà Radio Anziana con noi, e però lui non poteva il venerdì, quindi lo facciamo ovviamente di sabato, quindi sabato alle ore 23 Runtime by Night, con il famoso tema meraviglioso, incredibile: qual è stata la spesa più stupida della tua vita, che è una cosa veramente incredibile. Mentre martedì, mercoledì e giovedì torna Walter Sbano con Le Orazioni della Sera alle ore 20, mercoledì ritorna alle ore 7 il nostro carissimo Leo Vargion, che questa mattina ha trasmesso una cosa molto molto alternativa. Abbiamo fatto un esperimento molto molto particolare, e invece venerdì poi ci sono io alle 7 sempre con il grande reset. Il tema è: cosa fareste per cambiare la vostra vita e per riacquistare, a cosa rinuncereste? A cosa rinuncereste? Esatto, a cosa rinuncereste per riguadagnare il vostro, la vostra libertà di gestire il tempo? E soprattutto, vivereste in un camper? Questo insomma è un tema che ovviamente abbiamo già discusso in altre situazioni, ma lo faremo. Walter già ci ha mandato il suo audio, quindi mandate i vostri audio e ditemi insomma la vostra, cosa ne pensate. Detto questo, ci vediamo domattina con tutta la programmazione di Rantem Radio. Ciao. Oh.